Savonarola, il frate che scimmiottò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che nacque quando la maggior parte degli europei e degli americani dava per scontato che l'uomo fosse stato creato manipolando la materia da un essere di un'altra dimensione che anticamente veniva identificato con Dio, e solo un pugno di complottisti all'epoca proponeva la tesi che l'uomo discendesse invece dalla scimmia, e lette da me che sono nato quando la maggior parte degli europei e degli americani dà per scontato che l'uomo discenda dalla scimmia, e solo un pugno di complottisti oggi propone la tesi che l'uomo sia una manipolazione genetica ad opera di esseri di altre dimensioni o pianeti che anticamente venivano identificati con gli dèi. D'altra parte, la scimmia è sempre scimmia, anche vestita di seta, e comunque, quando Iddio non vuole, i santi non possono. Serio, capitolo 30, chiarissimo avvocato. Di tutti i nemici della Repubblica, più fiero certamente era il Papa. Il Moro sarebbe stato contento di vedere per ora trionfare gli arrabbiati in Firenze. I veneziani volevano acquistare qualche autorità in Pisa, ma il Papa voleva invece distruggere assolutamente la Repubblica e rimettervi i medici come suoi vassalli, per aprire poi la strada ai suoi figli. E quando tutti gli alleati aspettavano la discesa dell'imperatore, egli solo, non sapendo frenare il suo impeto, s'era mosso con le proprie armi. Più d'ogni altra cosa era poi grande nel Borgia l'odio contro al Savonarola, di cui temeva assai il ritorno sul Pergamo, perché capiva che questo poteva ora mandare a vuoto tutte le speranze concepite per l'avvicinarsi dell'imperatore. Il popolo fiorentino, guidato nuovamente dal suo frate, rianimato da quella voce, sarebbe forse divenuto capace di qualche eroica difesa. Decise quindi il Santo Padre di usare le minacce, le lusinghe, le promesse, ogni arte di cui era capace per impedire che il Savonarola risalisse sul Pergamo, ora che tutto il popolo e la signoria stessa ne lo pregavano. Il breve che aprì questa nuova guerra partiva da Roma il giorno 8 settembre, era indirizzato al convento di San Marco e, simile a quello venuto nel settembre dello scorso anno ai frati di Santa Croce, parlava del Savonarola come di un tal Fra Girolamo, amico di novità e seminatore di falsa dottrina. Egli, così diceva il breve, è venuto per queste commutazioni delle cose d'Italia in tanta insania da far credere al popolo che è mandato da Dio e che parla con Dio, senza provarlo né con miracoli né con speciale testimonianza delle sacre scritture, come esigerebbero le canoniche leggi. Noi abbiamo dato prova di lunga pazienza, sperando che volesse pentirsi e rimediare ai suoi trascorsi col sottomettersi a noi e desistere da quella scandalosa separazione dalla congregazione lombarda che alcuni frati con ingannevoli arti avevano da noi estorta. Si concludeva poi con rimettere tutta questa causa a Fra Sebastiano de Madis, vicario generale della congregazione lombarda, e imponendo al Savonarola di riconoscere la sua autorità, di recarsi tosto ove da lui gli venisse comandato e in questo mezzo astenersi da qualunque predicazione pubblica o privata. Il convento di San Marco veniva unito alla congregazione lombarda ed era ordinato a Fra Domenico, Fra Silvestro e Fra Tommaso Bussino di recarsi fra 9 giorni a Bologna, tutto ciò sotto pena di scomunica late sentenzie. Il fine di questo breve era per se stesso evidente. Il Santo Padre voleva innanzitutto far tacere il frate, ma perché ad ognuno diveniva oggimai palese che la guerra da lui mossa contro al Savonarola era una guerra tutta politica e parte principale di quella che esso faceva alla Repubblica, così, col rimettere la causa in altri e col ridurla ad una disputa di unione o separazione di conventi, esso cercava nasconderne il vero carattere e rendervi la Repubblica indifferente. Una volta che la congregazione di San Marco fosse sciolta, l'autorità del Savonarola cadeva, e se egli, obbedendo ai comandi del superiore di Lombardia, usciva dal territorio toscano, verrebbe subito nelle mani del Borgia. Il Savonarola, che capiva chiaramente tutto ciò, risolvette sin dal principio di non obbedire, ma per non rendere la sua posizione più difficile con l'inasprire maggiormente l'animo del Papa, mandò il 29 settembre una sua lunghissima risposta. Si doleva in essa che i suoi nemici riuscissero ad ingannare il Santo Padre sopra cose che avevano avuto luogo alla presenza di tutto il popolo. In quanto alla dottrina, egli diceva, io mi sono sempre sottomesso alla Chiesa. In quanto alla profezia, io non ho mai detto assolutamente di essere profeta, sebbene questa non sarebbe eresia. Ma bene, ho predetto varie cose, alcune delle quali si sono verificate, altre lo saranno col tempo. Noto è d'altronde a tutta Italia come il flagello sia già cominciato e come, solamente per mezzo delle mie parole, sia seguita la pace in Firenze, senza di che le sventure sarebbero state per tutti assai maggiori. Così, procedendo oltre, egli rammentava al Santo Padre che il breve della separazione non fu estorto da pochi frati, ma venne chiesto da tutti e fu concesso dopo lunga discussione. Il rimettere poi la nostra causa alla decisione del vicario lombardo, questo è un voler far giudice il nostro avversario, giacché a tutti sono note le contese delle due congregazioni. Donde mai può nascere, Santissimo Padre, tutto ciò se non dalle false accuse, dalle mendaci relazioni dei nemici di questa Repubblica che io ho salvata da tanti pericoli, che ho ridotta alla vera religione e libertà, distruggendo le fazioni, correggendo i costumi ed introducendovi la pace. Avendo dunque provate false tutte le accuse mosse contro di me, conceda vostra santità che io attenda una risposta alla mia difesa e un'assoluzione. Nello stesso tempo il Savonarola scrisse molte lettere che indirizzò ad amici di qualche autorità in Roma, ripetendo le medesime ragioni che adduceva al Papa in favore della sua causa e raccomandandola a tutti caldissimamente. Alessandro VI, col suo occhio sagace e penetrante, comprese le difficoltà del caso e usò allora un'astuzia degna veramente dell'antico avvocato di Barcellona. Visto che il frate era deciso a non sciogliere la sua congregazione e a non partire di Firenze, visto che il momento era assai decisivo per la Repubblica, onde la sola cosa che importasse al presente era di far sì che il frate non predicasse, lasciò le minacce e si volse alle lusinghe. Il 16 ottobre partiva quindi un altro breve, nel quale il Santo Padre, rispondendo alla lettera del Savonarola, rallegravasi come del ritorno d'una pecorella smarrita. «Noi ti abbiamo, così gli diceva, in altre lettere manifestato il nostro dolore per questi sollevamenti fiorentini di cui le tue prediche sono state precipua cagione, giacché in luogo di predicare contro i vizi e raccomandare l'unione tu vai annunziando il futuro, cosa che potrebbe far nascere discordia in ogni popolo pacifico, massime poi nel fiorentino ove sono tanti semi di discordia e fazioni». Per queste ragioni ti chiamammo appresso di noi, ma ora che per le tue lettere e per mezzo di molti cardinali sentiamo che sei apparecchiato all'obbedienza della Romana Chiesa, grandemente ci siamo rallegrati, persuadendoci che tu abbia errato piuttosto per soverchia semplicità che per animo cattivo. Onde, in virtù di santa obbedienza, ti comandiamo che ti astenga da ogni sermone non solo pubblico ma anche privato, a ciò non possa dirsi che dalla predicazione ti sei ridotto ai conventicoli. E questo modo terrai sino a che potrai più sicuramente e con decoro venire alla presenza di noi che ti riceveremo con paterno e lieto animo, o insino a quando avremo più maturamente deliberato qual modo tu debba tenere e destinato una persona idonea a riordinar queste cose. E se, come non dubitiamo, tu vorrai obbedire, fin da ora sospendiamo tutti i brevi antecedenti, a ciò tu possa per ora attendere tranquillamente alla tua spirituale salute. Dopo questo breve il Savonarola trovavasi in una difficilissima condizione e gli capiva bene che tutta quella paterna dolcezza non era altro che un'arte per chiudergli la bocca nel momento in cui la Repubblica aveva maggiore bisogno di lui. Era la solita astuzia del Borgia che ormai tutti conoscevano. Le lettere dell'ambasciatore di Roma infatti facevano sapere che l'ira del Santo Padre era più che mai violenta e che gli voleva assolutamente mettere le mani sulla persona del frate. Le armi del Papa mosse contro la Repubblica, le istigazioni che faceva all'imperatore, il perfetto accordo che regnava fra lui e Piero de' Medici che s'era fermato a Roma e di cui vi cercava a stendere nuove fila di congiure in Firenze, tutto metteva fuori di dubbio che il Borgia voleva ora far tacere il Savonarola per poter meglio opprimere la Repubblica, dopodiché gli sarebbe stato assai facile spegnerlo affatto. Non di meno, in che modo poteva questi disobbedire ad un comando in apparenza così giusto e benigno, ad un breve che gli offeriva generale perdono a condizione solamente che si tacesse? Il disobbedire non sarebbe a molti sembrato un voler mettere scandalo nella Chiesa, un rendere impossibile ogni conciliazione? Sebbene adunque il Savonarola non fosse sordo alla voce della patria che lo chiamava, sebbene conoscesse in che gravi pericoli ella versasse e fosse persuaso che la finta benignità del Papa non era che astuzia, pure volle obbedire. Infatti, sin da che giunse il breve dell'8 settembre, egli s'era taciuto e continuava tuttavia nel suo proposito.